solo oggi due, al massimo tre serate blindatissime, connotate da programmi più vicini a Mi Manda Rai 3 che a Ballarò o peggio a Fazio. Questo sarebbe il piano di Berlusconi. Per il fatto è il momento di parlare di economia. Soldi e dintorni. Ed eccoci, oggi trovo con grande piacere Valeria De Rosa. Buongiorno, ci siamo sbarazzati di Deborah Rosciani? No, non ti sei sbarazzato di Deborah, né tu, pazienza, né gli ascoltatori, pazienza. Per oggi e per domani io la sostituisco, ma poi da lunedì puntuale alle 8:15 Deborah sarà qui con la te, politica quindi dei piccoli passi. chissà, però non penso e non spero proprio di no, che tu non te ne liberi. Ma no, scherzo, di che allora, parliamo? Oggi parliamo in questo spazio di notai. Mi fa piacere ospitare proprio a Soldi e Dintorni la categoria, perché è una categoria non molto amata, a dir la verità, e mi perdonerà il dottor Domenico De Stefano, che è collegato telefonicamente con noi, che è il presidente del Consiglio Notarile di Milano, che saluto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dicevo, non è una categoria molto amata, io non voglio difendere perché non è il mio compito, e poi perché si difendono benissimo da soli, però mi preme sottolineare che spesso e volentieri il lavoro del notaio ci mette al riparo da brutte sorprese e insomma questo dovrebbe in qualche modo rincuorarci di fronte poi alle parcelle, e poi magari ci torneremo anche sulle parcelle, perché non tutto va a finire nella tasca del notaio. Oggi però parliamo di una iniziativa molto importante che ha per titolo Studi Notarili Aperti. Dottor De Stefano, ci spieghi che cos'è? Ma è un'iniziativa che serve a fare, per l'appunto, conoscere il notaio un po' di più per quello che è e un po' di meno per quello che si dice di lui. L'iniziativa consiste nel mettere a disposizione dei cittadini un numero di appuntamenti, sono più di 1200 circa, appuntamenti gratuiti per la consulenza preventiva. Che cosa significa? Se si va dal notaio prima di fare il rogito, è per tradizione, non è un'offerta speciale straordinaria, è per tradizione che non si paga nulla, dal notaio si paga la parcella se e quando si fa l'atto. L'iniziativa serve a dire: andate dal notaio prima, per tempo, perché avrete semplicemente in anticipo quella consulenza che comunque il notaio, anche implicitamente, è obbligato a fare. Allora, dottor De Stefano, intanto diciamo dove è attiva questa iniziativa degli studi notarili aperti e quindi delle consulenze gratuite. Dunque, è attiva nel distretto di Milano e Riuniti, che in realtà sono tutta la provincia di Milano, Lodi, Varese, Monza e comprende anche il Tribunale di Busto Arsizio. Ma in realtà queste iniziative, questa è quella che organizziamo noi, sì, e che passa attraverso il sito www.comprarcasasenzarischi.it, dove si possono, andando sul sito, si possono prenotare direttamente gli appuntamenti senza far telefonate né altro. Questa è quella che organizziamo noi, ma in Italia, sia naturalmente al nord, al centro, al sud, ci sono nei vari periodi tante iniziative di questo tipo. Sì, infatti tra l'altro volevamo citarne alcune, ad esempio a Bari dal maggio del 2007 ogni martedì dalle 9:30 alle 12 presso la sede del Consiglio Notarile a rotazione i notai prestano consulenza gratuita, analoga situazione c'è a Bergamo e poi a Genova, insomma un po' distribuita su tutta Italia, basta cercare ad esempio il numero del Consiglio Notarile della propria città oppure consultare internet e vedere dove e quando è possibile poi rivolgersi gratuitamente ai notai per capire come è meglio muoversi. Tra l'altro immagino che la vostra consulenza vada oltre l'acquisto della casa o ad esempio l'accendere un mutuo, ci sono anche delle altre situazioni in cui il notaio diventa una presenza importante che, come dicevo prima, può metterci al riparo da brutte esperienze. Certamente, c'è la competenza tradizionale che tutti si aspettano, che è quella in materia testamentaria, che pure è importante nel momento in cui si compra la casa e ce la si vuole intestare, soprattutto oggi che ci sono in atto tante situazioni familiari un po' più complesse di un tempo. Diciamo così. Ecco, seconde nozze piuttosto che convivenze. Per esempio nel caso delle convivenze, un pensierino scaramantico a quello che può essere il destino della casa comprata insieme dalla coppia nel caso in cui questa convivenza dovesse interrompersi bruscamente per un evento imprevisto, è doveroso, e il notaio è sicuramente la persona giusta. In realtà poi anche nell'intrapresa delle attività aziendali di impresa, anche lì il notaio può svolgere un'importante funzione di consiglio e di impostazione. Intendiamoci, il notaio non è un tuttologo che può sostituire gli altri professionisti. Certo. Se si vuole impostare bene un'attività di impresa, è giusto e necessario sentire un commercialista. Se si compra la casa e si vuole essere ben informati sui prezzi, l'agente immobiliare svolge il suo servizio ed è necessario anche lui. Diciamo che il notaio, trovandosi in questo snodo, spesso, molto spesso, è depositario di un'esperienza che facilmente, e ripeto, senza costi aggiuntivi, può essere trasferita sui cittadini. Lei diceva giustamente, non solo le famiglie, non solo i singoli, ma noi siamo d'aiuto anche alle imprese, perché molto spesso per noi il notaio è associato appunto all'acquisto della casa e non ci rendiamo conto che può essere una figura importante anche ad esempio nello sviluppo della propria attività imprenditoriale. Sì, guardi, il notaio segue le famiglie e le imprese. Le imprese, nella carriera di un notaio, capita veramente di seguirle dalla nascita fino al loro spegnimento e al loro scioglimento. Un'impresa, come una famiglia, attraversa nella sua vita diverse fasi. Anche la crescita può determinare delle crisi di crescita nell'impresa. E, ripeto, proprio perché il notaio è a contatto con tante realtà, è in condizione di fornire spesso dei buoni consigli e tante volte sono più che sufficienti. Tante volte, naturalmente, il notaio coopera, consiglia, indirizza, certo, anche verso altri professionisti. Vanno integrati, certo, con altri professionisti. Certo. Dottor De Stefano, ricordiamo velocemente quanto dura questa iniziativa su Milano e diciamo distretto. Dura fino alla fine di novembre sostanzialmente, comunque andando sul sito, anche quando gli appuntamenti fossero esauriti, sì. Noi abbiamo un servizio di consulenza attraverso email a risposte a domande che sospendiamo durante la fase degli appuntamenti perché preferiamo il contatto diretto. Quando finisce la fase degli appuntamenti, che comunque, ripeto, possono sempre essere richiesti, basta telefonare al notaio della propria zona oppure magari vicino al proprio posto di lavoro per chiedere un colloquio di consulenza preventiva. Adesso c'è la facilitazione del sito, è molto comodo e simpatico, ma anche dopo si può sempre chiedere e la si otterrà senza problemi. Allora, l'ultima domanda che le volevo fare è proprio in merito alle parcelle, perché questa è una nota dolente per tutti quelli che comprano la casa. Esatto, che devono comprare casa. Normalmente, facciamo un caso di esempio, quanto può costare un notaio e quanto poi va effettivamente nelle tasche del notaio e quanto invece in imposte, tasse e quant'altro? Ma naturalmente i casi sono molto variabili. Credo che il caso più frequente sia quello che interessa di più, che è quello dell'acquisto della prima casa. Sì. Per l'acquisto della prima casa c'è un meccanismo abbastanza complicato per calcolare le imposte, perché finalmente, e questa è stata una battaglia del notariato, le imposte per chi compra la prima casa sono calcolate in maniera automatica sul valore catastale, e questo fa sì che finalmente, dopo tanti anni diciamo di grigiore, il cittadino è nelle condizioni di fare il suo dovere, cioè dichiarare integralmente tutto il prezzo che paga. Che paga della casa, ovviamente. Quindi da lì non si scappa, insomma. Non solo non si scappa, ma siccome c'è la rendita catastale, il prezzo può essere dichiarato tranquillamente, serenamente, alla luce del sole. Certo. E questa è una grande cosa. Diciamo che sull'acquisto della prima casa, sì, la parcella del notaio, parlando di case di valore medio, le chiedo un po' di velocità, pensiamo a 200.000 euro, che non è poi moltissimo ormai purtroppo per comprare una casa, soprattutto nelle città. Ecco, la parcella del notaio si aggira attorno allo 0,6-0,7%. Certo. Quindi su 200.000 euro siamo attorno ai 1.500-1.800 euro. Tutto il resto tutto non il resto va nelle vostre tasche, che è altre quattro volte questo, sono le imposte che si pagano. Certo, quindi insomma è da tenere registro e le altre imposte. Certo, è sempre da tenere presente. Io la ringrazio moltissimo, notaio Domenico De Stefano, presidente del Consiglio Notarile di Milano. Grazie a lei per essere intervenuto. Vi ricordo appunto l'iniziativa Studi Notarili Aperti. A te Alessandro. Salva Danaio, oggi parleremo di sconti per i disabili e sgravi per i disabili. Le notizie in primo piano: c'è stato un attentato stamattina in Afghanistan contro i militari italiani. 4 i paracadutisti colpiti stavano viaggiando su un mezzo Lince quando è avvenuta un'esplosione. I 4 sono rimasti praticamente illesi, hanno già chiamato a casa le famiglie rassicurandole. 21 modelli nuovi entro il 2014, 3 piattaforme condivise con Fiat. Sergio Marchionne ha presentato ieri negli Stati Uniti il piano industriale per la Chrysler per i prossimi 4 anni. Vi ricordo che ne parlerà Oscar Giannino alle 9. Il Tribunale di Milano ha condannato ieri 23 agenti della CIA per il sequestro avvenuto a Milano nel 2003 dell'imam Abu Omar. Non giudicabili invece gli ex vertici italiani dei servizi segreti, il direttore Nicolò Pollari, il vice Marco Mancini, per l'esistenza del segreto di Stato. Infine con la Champions League, vittoria rocambolesca fondamentale per l'Inter a Kiev, 2-1 sulla Dinamo, con i nerazzurri sotto di 1-0 che ribaltano il risultato a ridosso del 90esimo e ora sono primi nel girone. Vince anche la Fiorentina 5-2 sul Debrecen. Stasera in campo Roma, Lazio e Genoa per l'Europa League. E allora, detto che ieri parlavamo di crocifisso e il 61% di voi ha detto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha preso una bella cantonata con quella sentenza no ai crocifissi nelle scuole, oggi parliamo di test antidroga ai politici. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Vabbè, inutile negare che il caso Marrazzo ha rilanciato la cosa. Marrazzo ha detto oggi sui giornali, nei vari interrogatori, forse sono stato ripreso anche in un incontro con due trans, ma non ricordo, ero obnubilato dalla cocaina. Il sindaco di Roma Alemanno ha detto tutti a fare il test, io lo farò per primo a cominciare da oggi. Ci vuole questo test antidroga? Il 91% di voi dice già di sì, è un plebiscito quasi, ma insomma è un po' facile. Onorevole Alessandra Mussolini, buongiorno. Sì, buongiorno. Purtroppo siamo arrivati a questo punto, cioè? Quindi io credo che non a spot, a dire io me lo faccio, io non me lo faccio, io do un capello che già ho dato a far esaminare, cioè bisogna farlo tutti, Camera, Senato, assumendosi Fini e Schifani la responsabilità, perché io credo che i politici abbiano un onere in più rispetto ai cittadini comuni e quindi bisogna farlo totalmente. Chi si rifiuta poi verrà giudicato, chissà perché. Quindi obbligatorio. Quindi io credo obbligatorio. Che a questo punto vada fatto, perché sennò sembra che tutti i politici, io prendo neanche il moment, e no, io mi ribello a questo, quindi facciamolo tutti. Ma obbligatorio? Chi no. Obbligatorio? Obbligatorio, beh certo, su base volontaria chi lo fa? Perché guardi che perché lo fanno fuori alle discoteche e non ai politici. Ai politici cioè a noi si deve fare. Però si va dentro una struttura che tra l'altro ho messo anche a disposizione presso il Ministero del Welfare e si fa. Però le chiedo come provocazione, ma le fa più paura, che ne so, un anestesista che prima di entrare in sala operatoria magari si è fatto una striscia, oppure un pilota d'aereo, oppure un politico che sì, voterà, ma il suo voto vale 1,5 a 600 e rotti. Guardi, se noi non cominciamo ad assumerci le nostre responsabilità, allora diciamo è più grave che lo faccia un pilota d'aereo, quindi cominciassero a farli i piloti d'aereo. Con quale diritto tu che fai le leggi hai di parlare così? Quindi cominciamo noi, quindi vediamo chi sì, chi no, chi è dubbio. E poi si possono fare le leggi pure per gli altri, però intanto cominciamo noi, se no non abbiamo più credibilità, perché qua tra trans e il doping e altro cioè sta diventando una situazione abnorme. Che c'è d'altro? Quindi, altro, perché che uscirà d'altro? Succedere di tutto. Che uscirà d'altro, scusi? Ma che ne so, ogni giorno ce n'è una, insomma io avevo dato la mia solidarietà a Marrazzo il primo giorno, poi qua sta succedendo una situazione incredibile, emergendo cioè devo leggere sui giornali dei trans che sono meglio delle donne, cioè io mi sono anche un po' schifata, disgustata, quindi è bene che si cominci a fare un po' di chiarezza anche tra di noi politici. Mm. Senta, l'ascolto, io so che lei ci deve lasciare tra poco, ma stia ancora tre minuti, voglio sì. Perché Marco Cappato voglio salutare, dei radicali. Buongiorno, Cappato, buongiorno. Saluto a tutti, Alessandro. Che dice? La Mussolini ha detto adesso a questo punto obbligatorio tutti e basta, perché voi radicali che ne pensate? Ma io posso dire quello che ne penso io, e penso che sia una piccola buffonata non per niente organizzata da un ceto politico che ha bisogno di legittimare se stesso e quindi dice test antidroga. Intanto una messa in scena, perché come sappiamo i cittadini italiani non hanno la possibilità di eleggere i loro parlamentari, sono nominati dai vertici di partito, quindi anche se c'è chi fa il test, chi non lo fa, poi tanto il cittadino non può scegliere assolutamente nulla, perché siamo in Italia e non in America. E una buffonata pericolosa anche perché serve a legittimare poi l'estensione di questo tipo di controlli sul corpo delle persone, e c'è già chi propone, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, ovviamente non i test sulle droghe legali come l'alcol che ammazzano 30-40 mila persone all'anno, ma i test sulle droghe, quelle del proibizionismo, quelle per le quali, per intenderci, Stefano Cucchi è stato arrestato con qualche grammo mentre passeggiava tranquillamente in un parco ed è uscito morto dai luoghi dello Stato, dagli ospedali e dal carcere. Quindi queste sono politiche, quelle proibizioniste e di repressione sul corpo individuale e sul consumo di ciascuno, che sono politiche da Stato totalitario e fascista. Non è che se il ceto politico, per farsi bello, si analizza un capello ogni tanto, risolve questa situazione di distruzione dello Stato di diritto. Però, onorevole Mussolini, questa io della... non condivido una parola, però l'alcol effettivamente fa parte della classe politica e io non posso poi giudicare e fare delle leggi contro chi ad esempio guida un pullman scolastico e si bomba o si droga e poi scandalizzarmi quando siamo noi i primi a usare queste sostanze. Quindi io sono per fare il test, punto e basta. Non cominciamo a dire sì, no, una volta intanto si cominciasse capelli, saliva, sudore, quello che volete. Ma quando si arriva, quando sono arrivate le Iene, avete l'unica a dire come classe politica, dico, la privacy. Sono stata tra le poche, se non l'unica, a dire che il servizio doveva essere mandato in onda e che loro avevano tutti il diritto di farlo, come è stato fatto ai ragazzi fuori dalle discoteche. Quindi non è che possiamo dire ai ragazzi infatti chi non ha paura se lo fa, a me potete pure staccare un pezzo di cose, uno lo fa. Chi non vuole fare accetta, e poi non è vero, perché poi dopo, quando i risultati sono alla luce del sole, senza menzogne, non è che dice no, il risultato non si fa vedere, si deve fare, se no diventa uno spot, se lo fa Le Manno, me lo sono già fatta io, no, tutti se lo devono fare. Allora, onorevole, rubandole ancora due minuti, ma poi le prometto che la lascio, perché c'è Marco Cappato, ma voglio anche salutare, ci ha raggiunto. Che lo facesse pure Cappato. Che lo facesse Cappato, ma forse Cappato lo fa. Con tutti quei capelli che c'ha, uno li può dare. Io voglio salutare, ci ha raggiunto e ci sta ascoltando anche Cosimo Mele, buongiorno. Buongiorno. Mele, buongiorno. Cosimo Mele, lo ricorderete, insomma, è un episodio di cronaca che tutti ricordiamo. Ex parlamentare dell'UDC, fu una notte del luglio del 2007, che fu una notte con due prostitute in un hotel. C'era anche della droga, anche se so che lei, Mele, ha sempre detto: io quella droga non l'ho consumata. Conferma, cioè non ha. Certo, io confermo. Conferma. Senta, che ne pensa? Lei ha pagato politicamente con l'estromissione del partito, in questo momento non ha incarichi politici, mi risulta, perché anche alle ultime amministrative non è stato eletto. Che ne pensa di questo test? Guardi, in un contesto normale sarei contrario agli esami per dimostrare se è un parlamentare, ma oltre al parlamentare io voglio ricordare anche chi ha degli incarichi pubblici, perché poi si parla solo del parlamentare, del politico, ma il problema della droga in Italia sta diventando un problema molto serio e purtroppo a causa di questa schifezza succedono tanti e tanti episodi, diciamo, poco rassicuranti. In un momento però particolare come questo, dove la spettacolarizzazione della politica, io credo che sia necessario mettere un po' d'ordine e dimostrare all'opinione pubblica che c'è una classe dirigente politica che non fa uso di sostanze stupefacenti. Ma perché lei in un'intervista a Gian Antonio Stella disse gira droga in Parlamento? Secondo me gira la droga in Parlamento, sicuramente non sono pochi i parlamentari che ne potranno fare uso, proprio per questo motivo, per quei pochi che ne fanno uso, non è giusto che venga coinvolto tutto il Parlamento e che si generalizzi, perché purtroppo questo sta succedendo. No, una volta ha detto sempre di questi giorni, voglio dire, sono la dimostrazione. Sempre in quell'intervista ha detto che ne avrebbe trovata lei una volta una striscia in bagno. Sì, confermo, una volta sono andato in bagno, non una striscia, no. Un po' di polvere. Sì, una volta sono andato in bagno e ho trovato della polvere sul tavolino, diciamo, sul tavolinetto che c'è lì nei bagni. Cocaina era. Era della polvere bianca, non l'ho analizzata, presumibilmente potrebbe essere della cocaina. Onorevole Mussolini, nella scialla, non so, c'è Cosimo Mele qui che ha pagato politicamente, insomma, quella che dice il test, facciamolo. Ma certo, basta, è inutile che stiamo ancora a parlare, perché io non ci sto a passare come altre persone che lo fanno, sono fatti loro, se lo fanno o non lo fanno, però tutti no, scusi, quindi ognuno se lo deve fare e poi vediamo con che esce fuori. Dice anche che gira droga in Parlamento, insomma, sento tanti bambini. Senta, io qua non l'ho vista, ma se fosse così uno ne prende atto. Va bene. Perché no? Si ripulisce tutto l'ambiente, non è male ogni tanto fare le pulizie di Pasqua. Va bene. Io la ringrazio, la lascio ai suoi doveri di mamma. C'è Cosimo Mele che rimane con noi, Marco Cappato, adesso la faccio anche replicare, devo dare un attimo il traffico. Devo dire che il sondaggio per ora, ripeto, è abbastanza un plebiscito, 91% dice sì al test antidroga. Io ripeto, l'ho detto anche prima in rassegna stampa, un pizzico di demagogia e di populismo forse lo vedo in questo, anzi senza forse lo vedo in questa iniziativa. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, test antidroga ai politici vanno fatti oppure no? Il sindaco Alemanno ha detto oggi in prima persona vado e lo faccio e tutti facciano come me. Prima di andare da Marco Cappato, un file di un audio, insomma, lo disse Daniele Capezzone, anche lui è un passato radicale, che disse questa frase che è rimasta storica. Io avevo detto un anno e mezzo fa che se un cane poliziotto entrava a Montecitorio si arrendeva il cane e gli andava in tilt il naso. Chissà perché va in tilt il naso del cane antidroga in Parlamento, per Capezzone. Fabio da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. Che dice? Sì al testo, no? Sì, io ho ascoltato sia Mussolini che Cappato. Credo che manchi un piccolo tassello in tutto quello che è stato detto. Il fatto che la droga, se non mi sbaglio, in Italia è illegale. Quindi al di là del fatto che durante un voto uno possa essersi fatto una striscia o meno, il concetto è dove viene comprata la droga. Pertanto c'è l'uso personale sotto. Vabbè, ma sì, c'è tutta la questione. C'è l'uso personale, però comunque io che sono una persona che deve far rispettare la legge, comunque vado da uno spacciatore a comprarmi la droga. Quindi questo alimento quel mercato lì. Quindi comunque lei dice sì. Grazie Fabio da Genova. Cappato vuole, insomma, qua in netta minoranza, anche gli ascoltatori dicono al 90% sì, ci vuole. Io dico che c'è un po' di demagogia. No, ma io lo capisco, credo che se oggi facessimo un sondaggio su qualsiasi cosa da far fare ai politici italiani non potremmo andare sotto il 90%. E giustamente l'ascoltatore dice ma la droga è illegale, è anche vero che questa illegalità Io ho ricordato prima il caso di Stefano Cucchi, lo ribadisco, perché capita, ne capitano tanti di casi così, magari di persone che si uccidono dalla disperazione in carcere, che vengono arrestati per pochi grammi, nei palazzi del potere, non solo quello politico, questo non accade, c'è il privilegio di solito dell'impunità e dell'immunità. Ecco perché è popolare e istintivamente verrebbe da dire anche a me, benissimo, nel momento in cui il potere si considera al di sopra delle proprie stesse pessime leggi, beh, facciamo il test ai politici. Però io ritengo che in realtà non è un caso che siano questi stessi politici, una buona parte, visto che poi il proibizionismo li unisce tutti, da destra al centro a sinistra, loro stessi che oggi cercano di lavarsi un po' l'immagine con gli scandali che sono accaduti, dicendo andiamo a fare il test. E questo credo dovrebbe insospettire tutti, perché un conto è, siamo tutti ovviamente favorevoli al fatto che non si possa guidare fumati, ma nemmeno ubriachi, insisto. Qui però stiamo parlando di sostanze che è da matti continuare a proibire, cioè noi aiutiamo il crimine e la mafia continuando ad andare a caccia del ragazzo che ha pochi grammi di hashish o di cocaina in tasca. Ecco perché il segnale è sbagliato. E questa, vabbè, è la posizione dei radicali. Però un politico che poi firma una legge restrittiva con la droga e magari fa uso di cocaina, questo, voglio dire, è come certo minimo incompatibile, non so, con la sua vorrei usare un parolone, etica pubblica o mandato politico, diciamo così. Certo che questa è un'ipocrisia, ma bisogna vedere da che parte la vogliamo smantellare, cioè se la vogliamo smantellare dando ragione a loro stessi e magari poi introducendo questi controlli fascisti sul corpo delle persone, magari nelle scuole, perché c'è già gente che lo propone, nei luoghi di lavoro, eccetera, oppure se vogliamo smantellare questa ipocrisia dalla parte della libertà e responsabilità individuale per tutti i 60 milioni di cittadini italiani, ivi inclusi questi politici nominati che comunque non potremo scegliere, perché in Italia non si può eleggere allora, una persona. Prima di tornare a Cosimo Mele, ancora due ascoltatori, sempre rapidi, mi raccomando. Antonella da Roma, pro o contro il test? Senta, io volevo dire una cosa, smettetemi di parlare di fascismo. Noi siamo dei genitori che vogliamo allontanare ogni giorno, cerchiamo il modo di allontanare i nostri figli dalla droga. Ma come fa un politico a garantirci delle leggi contro la droga quando sono i primi a farne uso? Chi ce la dà questa garanzia? Beh, adesso i primi nel senso saranno, come statisticamente purtroppo la droga è molto diffusa e quindi sarà diffusa anche tra ho i politici. Capito, però se noi abbiamo gente che ne fa uso non ci può garantire, noi vogliamo, quindi lei, quindi ma la garanzia si ottiene con un test, secondo lei? Questo è il punto, cioè bisogna fare il test per dire tu politico ti droghi, non puoi fare il politico? Sostanzialmente lei è a favore, quindi immagino. Sono obbligati a farlo, e anche loro che sono i primi che devono dare il segno di essere delle persone che lottano per le cose che noi vogliamo. Va bene, grazie Antonella. Roberto da Milano, buongiorno, che ne pensa, pro o contro? No, ma io sono contrario al test antidroga. Perché? Le premetto che sono un medico, non esiste un'unica droga, quindi per fare un test antidroga è una batteria di test. Primo, e quindi c'è una difficoltà oggettiva, non è che... Questo è l'aspetto tecnico, diciamo. Ecco, quindi poi, seconda cosa, se uno vuol fare risultare il test antidroga negativo, aspetta un congruo periodo di tempo, se non è un tossicomane, e va bene. Ma dal punto di vista del concetto, perché è contrario? No, dal punto di vista del concetto io sono d'accordo a porre un rimedio, non sono contrario concettualmente, però mi sembra che non sia uno strumento quindi è fallace dal punto di vista tecnico, questo sostanzialmente lei dice. Grazie Roberto, vorrei tornare da Cosimo Mele, ma è vero che lei dice fu un trappolone quella nottata lì, c'era anche non lo so se è stato un trappolone, questo meno. Sospetto, diciamo. Ci sono più che un trappolone, è stata fatta una sceneggiata perché hanno capito, secondo me, che era un parlamentare, quindi poi c'è stata un'estorsione, c'è un processo aperto per cessione di cocaina nei miei confronti, c'è un processo aperto nei confronti della parte avversa per quanto riguarda la richiesta che mi fu fatta, sia in soldi che in contratti e quant'altro, però voglio dire, il dato è tratto, però, non credo che questo sia il problema. No, il problema, no, però, è che oggi la politica vuole mettere ordine a questi veleni che sono in giro, e credo che eccezionalmente anche la testimonianza di quella signora è singolare, ti fa riflettere eccezionalmente, e secondo me da prendere in considerazione. Poi le modalità, le forme, quant'altro ci verranno. Ma le chiedo, io stesso subito dopo quella vicenda il mio avvocato mi consigliò di farmi il test tricologico. Non è una cosa, diciamo, che fa piacere, però è l'unico modo per dimostrare. Le chiedo in una battuta, perché stiamo chiudendo in una battuta, ma del caso Marrazzo lei che pensa? Voglio dire, ancora una volta potere, sesso e droga. Ma guardi, del caso Marrazzi ho parlato la scorsa settimana in più occasioni, e ho detto come la penso. Non posso che dargli la mia solidarietà, perché quello che è successo è qualcosa di straordinario, c'è una crisi di identità che è venuta fuori, ci sono stati degli errori, ma adesso ormai il dato è tratto e Marrazzo deve pensare a sé e alla sua famiglia. Va bene, io ringrazio lei, Cosimo Mele, così come Marco Cappato, l'onorevole Alessandra Mussolini, e ricordo il sondaggio: test antidroga ai politici, che ne pensate? 90% per ora sì, ma continuate a votare radio24.it, ilsole24ore.com. C'è Laura Marchesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia, e noi, dando la linea a Oscar Giannino, ci troviamo domattina alle 7.30.